Il commissario Olli Rehn a Roma, il contagio della crisi si diffonde, l'Italia ha di fronte sfide formidabili. Il governatore Visco, bisogna investire sui giovani. Consiglio dei ministri oggi, non si è parlato di sottosegretari, Bossi, il governo fa schifo. Seduta in rosso per le borse europee, rendimenti record per l'asta dei bot. Calcio, venerdì di campionato, la Serie A riparte con Udinese-Roma. Una buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. La visita del commissario Rehn in Italia in primo piano, fitta l'agenda di oggi, sulla quale ci aggiorna in diretta Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Prima l'audizione qui alla Camera in Commissione Bilancio, quindi a seguire gli incontri con i ministri del Welfare Fornero, dello Sviluppo Economico Passera, dei rapporti con il Parlamento milanese e poi alle 15.30 a Palazzo Chigi il faccia a faccia con il Presidente del Consiglio Monti. Ma veniamo all'intervento di questa mattina del Vicepresidente della Commissione Europea. Nell'affrontare la crisi nell'area euro, ha detto Rehn, è urgente e necessario produrre risultati senza ritardi, anche perché, ha spiegato, il contagio della crisi dei debiti sovrani si sta diffondendo dai paesi periferici a quelli centrali, economia in stallo e mercato del lavoro in difficoltà, le preoccupazioni delle autorità europee. Quanto al nostro paese, l'Italia ha davanti a sé sfide formidabili anche per le debolezze antiche, ha detto il commissario agli affari economici. Oltre al consolidamento di bilancio, ha spiegato, sono necessarie ambiziose misure per rilanciare la crescita garantendo l'equità sociale. Il capitolo Eurobond, poi, c'è una forte opposizione da parte tedesca, ha fatto capire Olli Rehn, ma certo la Germania, pur essendo un paese importante, non decide da sola. No, ai direttori di due paesi, ha detto ancora Rehn. Infine, una nota di colore, Rehn ha ricordato le sue letture giovanili di Guareschi ed ha commentato, Don Camillo e Peppone avrebbero sostenuto il governo Monti. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo, la crisi in Europa va affrontata con determinazione, l'Italia può contribuire con interventi sul piano congiunturale e strutturale, così il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco da Catania. L'Italia ha grandi potenzialità, ha detto Visco, bisogna investire su giovani e istruzione. Per un riequilibrio strutturale e duraturo dei conti pubblici è necessario che il Paese torni a crescere. Il concetto è semplice, immediato, innegabile. E dato che la crescita non si crea dall'oggi al domani, secondo Visco servono misure diverse che coinvolgano ambiti diversi. Una riforma organica di tutti gli istituti che hanno a che fare con l'economia, per cominciare, per stimolare l'attività di impresa, semplificando le procedure. E poi più concorrenza, più facile accesso al capitale di rischio, una regolamentazione del mercato del lavoro, con particolare attenzione ai giovani, già penalizzati da salari d'ingresso fermi a 10 anni fa. Un sistema di protezione sociale, una giustizia civile più efficace. Poi, e non è l'ultimo punto per ordine di importanza, Visco parla dell'aumento della dotazione di capitale umano, tradotto un livello più alto di scolarizzazione. Ecco perché gli investimenti in istruzione sono cruciali nella politica economica, oltre a ridurre gli incentivi a delinquere. Ed ecco perché il governatore torna sull'inserimento, tema sul quale il ministro Riccardi e il presidente Napolitano hanno già detto la loro. Senza meccanismi efficaci di integrazione, il Paese rischia di perdere, soprattutto in termini economici. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Delle misure di cui si parla nei palazzi politici ed in Europa, intanto i cittadini non sanno ancora nulla, neppure hanno saputo qualcosa dal Consiglio dei Ministri che si è svolto oggi. Chi ha seguito per noi? Andrea Viali. Andrea. Sì, in effetti non è arrivata nessuna concreta novità anche da questo secondo Consiglio dei Ministri della settimana su questi provvedimenti anticrisi che sono allo studio del governo. Non c'è stata anche in questo caso alcuna conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri che si è concluso a mezzogiorno, c'è stata, dobbiamo dire, soltanto qualche scarna dichiarazione da parte di alcuni ministri. Presenteremo le misure quando saremo sicuri, non so i tempi, si è limitato a dire il ministro dell'ambiente Clini lasciando Palazzo Chigi, sempre sulle misure anticrisi. Poche parole sono arrivate anche dal ministro della cooperazione Riccardi prima della riunione del Consiglio dei Ministri, sentiamo cosa ha detto. Andiamo. Non c'è nessuna misura impressionante, niente è impressionante, noi siamo molto sereni. Io non credo che bisogna aspettarsi grandi sacrifici, bisogna aspettarsi un grande senso di responsabilità da parte di tutti. Ora andiamo a lavorare, vediamo un po', Ecco, conclusa la riunione, Riccardi ha aggiunto poi che non si è affrontato neanche il nodo della nomina dei viceministri e sottosegretari, c'è stata invece una relazione di Monti sui suoi incontri in Europa, poi si è parlato anche delle recenti emergenze maltempo in Sicilia, in Liguria e in Toscana, per le quali sono state approvate alcune ordinanze di protezione civile. Da Palazzo Chigi è tutto. Grazie Andrea. E sul fronte interno riflettori su presunti vertici notturni, mentre Bossi attacca frontalmente l'esecutivo. Umberto Bossi all'attacco mentre da più parti si smentiscono incontri a quattro tra i leader dei principali partiti e il neo premier Mario Monti. Bossi tuona contro l'esecutivo prima sulla Padania, poi a margine di una cerimonia nel Varesotto. Fa schifo, mi sembra un governo di improvvisati, dice il senatore, non arriverà al 2013. Il Presidente della Repubblica ha mandato di capo cordata uno che le montagne le ha viste solo in cartolina. Berlusconi si è dimesso perché le sue aziende sono state ricattate in un giorno. Sono crollate del 12%, ma niente ius soli e niente interventi sulle pensioni di anzianità, ribadisce il leader della Lega. Sul chi va là anche Antonio Di Pietro dell'Italia dei Valori, non so ancora se è un governo tecnico, ristretto e sostanzialmente raccolto in due persone. Vedremo con la nomina dei sottosegretari. Dall'altra parte, quindi dal fronte PD, PDL e UDC, arrivano smentite su presunti vertici a quattro tra Monti, Alfano, Bersani e Casini. Nessun incontro, solo contatti, spiega Bersani. Stessa tesi di Casini, sono stato contattato singolarmente dal Presidente del Consiglio. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Piazza Affari in calo dopo l'asta dei bot semestrali che sono stati collocati con un rendimento pari al 6,5% ai massimi dall'agosto del 97. Piazza Affari perde in questo momento oltre 2 punti percentuali, invece flessioni inferiori al punto percentuale a Francoforte e Parigi. E siamo alla nostra rubrica sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Complesso alberghiero Antica Masseria dell'Alta Murgia di Altamura è un bene sottratto il 4 febbraio scorso alla criminalità organizzata, acquisito dall'Agenzia Nazionale sui beni confiscati e sequestrati ad organizzazioni criminali. È affidato dal 10 giugno alla direzione di Gianfranco Vissani, uno degli chef più bravi e conosciuti al mondo. Gli affari dell'Antica Masseria, estesa su 11 ettari, pari a circa 110.000 metri quadri, di cui 10.000 coperti, valore oltre 16 milioni, sono sempre andati a gonfie vele. C'era però una macchia nera. Buste paga, straordinari e contributi regolarmente versati erano infatti concetti sconosciuti ai dipendenti. Insomma, l'evasione fiscale era la regola. Così il rilancio della struttura è dovuto passare, nonostante l'attrattiva della cucina raffinata a prezzi accessibili, attraverso l'eliminazione del lavoro sommerso. Una soluzione non gradita dalla maggior parte dei lavoratori. Alla fine, però, cuochi, camerieri e personale amministrativo hanno accettato contratti regolari a tempo indeterminato. La trattativa più dura è stata sugli straordinari. In passato venivano pagati a fine serata in contanti. Ora si è arrivati ad una soluzione legale, gli anticipi di cassa, senza scontentare troppo chi era abituato a vedersi pagare subito. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo del maltempo. Mentre a Saponara, in provincia di Messina, continuano le ricerche di Luigi Valla, terza vittima della frana che martedì scorso ha investito il paese, la protezione civile ha provveduto a sfollare oltre 700 persone da quelle che sono considerate le zone ancora maggiormente a rischio. Non sentiamo intanto che ripetercelo, mancano i fondi per la messa in sicurezza del territorio italiano dal rischio idrogeologico. Ieri il ministro Clini ha avanzato la possibilità che entrate della fiscalità corrente vengano regolarmente destinate ad un fondo per la prevenzione ambientale. Per interventi urgenti e circoscritti, Cesare Trevisani, vicepresidente di Confindustria per infrastrutture, logistica e mobilità, che propone anche un'altra possibilità, la propone al microfono di Laura Bettini. Si chiama il contratto di disponibilità. Praticamente l'esecutore anticipa i quattrini e gli vengono pagati il ritorno a rate con gli interessi, secondo un piano finanziario stabilito al momento del contratto, sì, sulla base dell'importo e del valore che l'investitore ha fatto. Praticamente l'ente pubblico si ateizza la spesa con le dovute garanzie e fiduzioni da parte dell'autorizzamento del pagatore che col tempo paga il bene che il costruttore ha anticipato con, le sue risorse. È una delle proposte che ha fatto Confindustria insieme ad altri per incrementare le attività nel mercato delle infrastrutture in Italia. Una di queste tante proposte fatte prevede anche il contratto di disponibilità, che era legato ad altre infrastrutture, a dire la verità, ma ripensandoci poteva essere uno strumento anche per i piccoli medi interventi di carattere idrogeologico. Calcio, si apre stasera il 13° turno di Serie A, 20:45 con Udinese Roma. Friulani con il tandem di Natale Floro Flores, mentre in casa giallorossa assenti Totti e Borriello, c'è attesa per le scelte di Luis Enrique. Sul fronte della nazionale intanto riflettori su Mario Balotelli. È un talento tecnico indiscutibile ed è maturato anche come uomo. Così l'ex CT azzurro Marcello Lippi commenta la crescita di Balotelli al microfono di Dario Ricci. Ma sul tema tecnico non c'è dubbio che è un giocatore che ha fatto un salto importante, è cresciuto molto, il livello del campionato in cui sta giocando con la sua squadra è molto alto e lui si vede anche dal rapporto che ha con i compagni, al di là di qualche, chiamiamolo, colpo di testa che ogni tanto ancora si concede, però è un giocatore che gode di una grande considerazione. E lo stesso discorso vale per la nazionale italiana. Direi tra l'altro anche molto più maturo nel rapporto con i media, con la stampa, no? Pronto insomma anche al dibattito. Ma mi sembra che stia crescendo, che abbia finalmente capito che di lui deve far parlare soltanto attraverso il campo, non tanto attraverso quelle discherate che ogni tanto fa, diciamo così. L'intervista integrale andrà in onda domenica alle 14:30 in A Bordo Campo. E adesso in chiusura parliamo di un'inaugurazione oggi a Roma, quella della nuova sede italiana di Groupama Assicurazioni, la filiale italiana del gruppo assicurativo francese. È un palazzo un po' particolare, ci sono sale relax, palestra, banca, convenzioni con gli esercenti del quartiere. Sentiamo l'amministratore delegato Christophe Buzot. Ci siamo detti c'è un investimento, ma non è una spesa, è un investimento, è molto diverso. Quindi abbiamo risparmi sia su, per esempio, il consumo di energia, abbiamo un risparmio forte sulla carta, perché stampiamo molto meno, abbiamo un risparmio legato a un impianto totalmente diverso dell'informatica. Questo permette di avere un risparmio immediato di 30% ogni anno, fa un po' di soldi. Abbiamo anche lavorato con i sindacati, abbiamo cercato di coinvolgere tutte le parti che potevano portare qualcosa al ragionamento generale e alle decisioni finali che abbiamo preso. Per esempio ha parlato delle quiet room. Le quiet room sono arrivate nel ragionamento perché avendo fatto la scelta di molti spazi aperti, di open space, abbiamo pensato con ragione che era assolutamente necessario avere momenti di riservatezza, sia per un colloquio, sia per ricevere qualcuno, eccetera, eccetera. Le 13:16 nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato della visita a Roma del commissario Olli Renni. Il contagio della crisi si diffonde e ha avvertito l'Italia ha di fronte sfide formidabili. Oggi ha parlato da Catania anche il governatore di Banca Italia Visco. Bisogna investire sui giovani, ha detto. Ed oggi a Roma c'è stato anche il secondo consiglio dei ministri, durante il quale non si è parlato di sottosegretari, ma soprattutto non si è parlato delle misure che invece ieri Monti ha presentato all'Europa. Bossi ha detto il governo fa schifo. Per quanto riguarda le borse, seduta in rosso e rendimenti ancora record per l'asta dei bot. Tra poco parleremo di Egitto e il Baradei in piazza Tahrir, insieme vinceremo, ha detto. Ancora una buona giornata da Annarita D'Ambrosio e dalla redazione. Partiamo proprio da qui, dall'Egitto, dove il candidato alla presidenza egiziana Mohamed El Baradei si è unito alle decine di migliaia di manifestanti che si trovano in piazza Tahrir per la preghiera del venerdì. Ed in piazza Tahrir c'è anche il nostro Ugo Tramballi. Ugo. Sì, buongiorno. C'è in corso una grande manifestazione che è iniziata molto prima della preghiera di mezzogiorno e c'è tantissima gente, probabilmente sfioriamo di nuovo il milione di persone, ma contemporaneamente a 20 minuti a piedi da qui, dove sto per andare, c'è un'altra dimostrazione dei sostenitori di Mubarak, il vecchio regime, la cosiddetta maggioranza silenziosa, che sta organizzando una manifestazione molto grande. Ho visto adesso le immagini per la televisione, ci saranno anche lì circa almeno apparentemente 100-200 mila persone, quindi comunque c'è, il paese è diviso, anche se i giovani sono tutti in piazza Al-Sahir. C'è un paese spaccato e poi intanto proprio al Cairo, Ugo, si tiene anche la riunione della Lega Araba, quella che deve prendere le decisioni sulla Siria, dove l'ultimatum è scaduto. Sì, questo in che modo dimostra comunque la forza, l'importanza dell'Egitto, nonostante sia un paese spaccato, un paese incerto sul suo futuro, continua a restare il centro del mondo arabo. Si sta decidendo sulla Siria, la Lega Araba, dove qui c'è il quartier generale, giusto in piazza Al-Sahir, c'è il quartier generale, sta decidendo sulla Siria, ma sono anche in corso incontri fra palestinesi, fra Hamas e autorità palestinese, fra i leader, per cercare di ricucire l'antica faida fra le due anime del popolo palestinese. Ancora di tutto questo non si sa, tutta l'attenzione è ovviamente focalizzata su piazza Al-Sahir. È stato nominato formalmente il nuovo primo ministro che era stato indicato ieri dai militari, ma per il primo ministro sarà molto difficile trovare entro lunedì, quando si vota, un ministro dell'interno e un ministro della giustizia che garantiscano il buon andamento delle elezioni. Per questo si continua a parlare del possibile rinvio elettorale. Grazie ad Ugo Tramballi dal Cairo. E noi veniamo alla cronaca italiana. Un'esplosione nella notte in una cartiera di Laglio, nei pressi di Dalmine, in provincia di Bergamo, ha provocato la morte di un operaio di 50 anni. A saltare letteralmente per aria è stata la caldaia di una cartiera, la Cama. La vittima si chiamava Rosario Spampinato e aveva 50 anni. L'esplosione ha completamente distrutto la fabbrica. Un anno fa la scomparsa di Yara Gambirasio, ritrovata poi senza vita 3 mesi dopo. Mentre ancora non è stato individuato l'assassino, il paese si prepara al primo anniversario della sua morte. La vita nel paese è cambiata un anno fa, dice Giovanni Valsecchi, che aveva coordinato i volontari che cercarono per settimane Yara. L'ha intervistato Raffaella Calandra. Tutto il paese purtroppo ha visto che viene alle lunghe, allora il morale è giù. Si vorrebbe che adesso che c'è il primo anniversario della morte di Yara ci fosse una risposta certa su chi l'ha uccisa. Tutti aspettano una risposta certa di chi ha fatto quel fattaccio lì, ma hanno perso la speranza, hanno sbagliato a fare le ricerche, a fare le indagini, la gente ha perso un po' di fiducia verso la polizia. Ma invece tutti i vari esami del DNA che sono stati fatti hanno creato dei sospetti reciproci all'interno della comunità di Brembate, oppure no? Almeno sentendo voci di paese, hanno in testa tutta la popolazione qua del paese che non sia uno di noi qua, sia uno strano. DNA addirittura, tutto il paese vorrebbe andare a rifarlo, per meno togliersi il peso dallo stomaco e dire Brembate non c'entra, capito? Io, dicendo la verità, non escluderei nessuno. Cioè lei personalmente non si sente di dire posso escludere che sia uno del paese? Non mi sento di mettere la mano sul fuoco che non sia uno di Brembate. Torniamo all'estero, primo incontro bilaterale oggi per il neo ministro degli esteri Giulio Terzi ad Istanbul. Terzi ha ribadito l'appoggio dell'Italia per l'ingresso della Turchia in Europa. Sulla questione dell'integrazione europea e dei negoziati di adesione e di tutte le misure di avvicinamento dei paesi che noi riteniamo essere, avere una prospettiva europea come loro futuro e loro destino, la Turchia è quello che sicuramente ha una dimensione e una rilevanza assai più grande di ogni altra, perché un allargamento alla Turchia, un proseguimento del processo di adesione, dà un senso, a nostro giudizio, a giudizio dell'Italia, dà un senso all'identità europea e al ruolo dell'Unione Europea quale grande protagonista nel mondo. Oggi 25 novembre ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Secondo dati dell'ONU, nel mondo intero una donna su 5 è vittima di violenza o tentativo di violenza nel corso della sua vita. In Italia si chiama Libere di Essere, l'evento per sensibilizzare sul tema, che coinvolge con un videomessaggio attori e personaggi dello spettacolo. Allora ascoltiamo l'appello di Maria Grazia Cucinotta, Miriam Catania e Paola Turci. libere di vivere senza paura, libere di vivere il dono di essere donna, libere di vivere l'importanza di essere donna, madre, libere di essere libere, la cosa più bella del mondo. Nel nostro paese, che ama definirsi moderno ed evoluto, mi stupisce molto sapere che la violenza sulle donne ha dei numeri enormi. Quindi, insomma, invito tutti voi a porre l'attenzione su questa problematica, soprattutto delle istituzioni, e a informarsi. Io sono Miriam e voglio una città migliore, un mondo migliore, per potermi sentire libera, libera di essere. Non abbiate paura di denunciare chi vi fa del male. Non abbiate paura di niente, perché ci sono uomini e uomini. Ci sono anche uomini che possono aiutarci. Lite per il supercompenso a Roberto Vecchioni, presidente del Forum delle Culture, che si terrà a Napoli nel 2013. Al cantautore 220.000 euro, denuncia La Stampa. E il sindaco di Napoli, De Magistris, ha parlato della scelta di un fuoriclasse e ha chiarito che le cifre sarebbero diverse. Intanto Roberto Vecchioni è stato ospite oggi di Alessandro Milan. Io ho comunque un plafond da cui non devo e non posso scendere, per dignità, per, giustamente anche per immagine, perché credo di poter valutare anche monetariamente una certa immagine che posso dare senza inorgoglirmi chiaramente alla città di Napoli. È un avvenimento importantissimo, mondiale, è un lavoro massacrante, e tenga anche presente questa cosa fondamentale: la cifra che ho chiesto è lorda e dentro devo anche pagare alcuni assistenti miei. Cioè, io capisco benissimo il momento difficile dell'Italia e quindi bisogna anche andare a venirsi incontro in tutti i modi, lo farò. Però se mi vogliono presidente, se vogliono che io abbia tutte le grane, i problemi, i pensieri, i pasticci a cui non sono abituato, se desiderano che io voglia dare un'immagine alla città di Napoli, sì, se vogliono questo, io devo avere anche un adeguato compenso. Fondazioni e cultura, un impegno da sostenere, il tema di un convegno in programma oggi alla Fondazione Bracco di Milano nell'ambito della 10ª edizione della Settimana della Cultura d'Impresa. Alla presidente Diana Bracco, Adriana Fracchia ha chiesto quando è nata la Fondazione Bracco e come porta avanti il suo impegno. È nata qualche anno fa, prima però diciamo che era l'azienda che si faceva carico di progetti culturali e scientifici, però abbiamo visto che costituire una fondazione ci consentiva di focalizzarci proprio sui nostri temi, e i nostri temi che sono la trasmissione dei nostri valori ai giovani della famiglia in particolare, e ai giovani anche che lavorano in Bracco. Per noi la cultura e quindi la bellezza e la cultura sono un tema molto importante, perché è un tema che produce PIL, diciamo così, quindi dovrebbe essere dall'Italia molto curato. Io credo che si debba cercare la partnership pubblico e privato, e credo anche che le imprese siano molto disposte a contribuire, però vogliono far parte un po' del progetto. In un momento di crisi economica come questo, come si può fare? Senza dubbio l'Italia è particolarmente penalizzante come regimi fiscali, e quindi questo noi vogliamo portare all'attenzione dei decisori e del paese quello che fanno anche gli altri paesi, la Francia per esempio. Il nostro paese è un grande paese, il nostro paese è un paese che si regge su questo petrolio della bellezza, diamoci tutti da fare allora. Ed è tutto per questa edizione, grazie in regia a Roberto Scaltritti, la GR torna alle 14, ora c'è Italia in controluce. GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini.